una delle curatrici della terza edizione della Roma Cinema Doc, che sarà al Cine de Tour sabato 30 marzo 2019. Valentina, ben trovata. Grazie. Ci parli di questa manifestazione, la terza edizione, che cos'è? Allora, è un festival di cortometraggi e documentari. Io lo definisco uno speakeasy dei festival cinematografici, perché è un piccolo progetto nato in maniera indipendente nel 2015, la prima edizione è stata nel 2016, la seconda è nel 2018 e andiamo ancora avanti con la terza, che penso sarà ancora più bella perché ogni anno si arricchisce di qualcosa. E noi ogni anno riusciamo a proiettare più o meno 16-18 film, dove metà sono il meglio che ci arriva da tutto il mondo, da tutti i paesi, e la metà cerchiamo di selezionare i migliori lavori italiani che ci arrivano tra quelli che appunto noi riceviamo tramite una piattaforma che si chiama Film Freeway, che funziona a livello mondiale molto bene. Il giuria è composta da tutti i miei ex colleghi del dottorato di ricerca di Roma 3, cioè di nuovi giovani studiosi, e quindi non è un festival gestito da addetti ai lavori o da filmmaker, ma da studiosi di cinema che vedono queste piccole opere che a volte sono veramente dei capolavori, e selezioniamo il meglio che ci arriva per creare una serata dove il pubblico può apprezzare effettivamente ciò che c'è di nuovo tra le nuove leve di quelli che forse diventeranno i registi di successo di domani, almeno quello che noi auguriamo ai nostri filmmaker. Sia film di finzione che documentari che cortometraggi? Esattamente, abbiamo diverse categorie che vanno dai cortometraggi narrativi agli experimental e ai film di animazione. C'è una categoria dedicata agli student film, quindi a chi partecipa alle scuole di cinema, e poi abbiamo due categorie sui documentari internazionali e italiani che noi difendiamo, cioè la categoria quella un po' più lunga dove mettiamo anche opere fino a 60 minuti, che onorano anche un po' il nome del festival, che si chiama Roma Cinema Doc, per giocare un po' con il doc nel senso di qualità, ma doc anche come documentario. Su che mole di opere lavorate? Diverse centinaia. Il primo anno abbiamo addirittura superato i 1000 film inviati, perché abbiamo lavorato tutto il 2015 e parte del 2016. Poi abbiamo un po' rallentato perché a livello proprio di team siamo molto cresciuti, ma abbiamo anche avuto un periodo di fermo nel 2017. Prima lavoravamo con una formula diversa, abbiamo creato un festival mensile dove ogni mese pubblicavamo sul sito tutti i nomi dei partecipanti e sceglievamo un vincitore per ogni categoria. Poi tutti questi vincitori partecipavano a una sorta di contest finale dove i migliori andavano alla serata del festival. Questa formula ci piaceva molto, ma richiedeva molto, molto lavoro. Allora abbiamo deciso di diventare un festival annuale concentrandoci solo sull'evento. Questo ha portato a dei cambiamenti e adesso, edizione che è stata molto ridotta a livello di tempo, di invio dei lavori, abbiamo ricevuto circa 600 film. E la squadra che lavora su questo materiale, da quante persone è composta? Allora, adesso attualmente ho 6 persone che collaborano stabilmente alla visione dei film, poi sono Nicolas Bilchi, Chiara Dionisi, Giacomo Fiorani, Marco Bolzi, Simona Manni e Rosalia Greco, che saluto, e sono capitanati da Elio Genti, che è il nostro presidente di giuria, mentre io mi occupo di tutto quello che è inerente sia al festival sia all'associazione culturale che la gestisce, e poi abbiamo Fabio Culotta, che è il nostro grafico nonché webmaster, e anche lui è una mente dietro ogni scelta che facciamo. Questo è il gruppo. Come sarà articolata la giornata? È già strutturata, nel senso che segue anche le formule che abbiamo usato per le altre due edizioni, che ci è molto piaciuta, ovvero l'ingresso è gratuito, la sala viene aperta alle 16.45 e ci sono vari blocchi di proiezione fino alle 22, intermezzati dall'incontro con gli autori. Quindi per ogni 4-5 cortometraggi poi ci fermiamo, incontriamo gli ospiti presenti in sala, che li presentiamo, ci parlano proprio anche dell'iter produttivo del loro film. C'è una saletta dedicata all'aperitivo dove si favorisce l'incontro tra pubblico e filmmaker, e poi alle 22 assegniamo due premi, il premio del pubblico e il premio della giuria, che quest'anno è composta da 5 vincitori delle edizioni passate.